Bravo, Marco. Attenzione, canale 23. Ecco, Bravo, canale 23. Attenzione, canale 23. Attenzione, canale certo. Sì, tu stava cercando Graziano. Come tu? Graziano della difesa mi c'era per fare il mio possesso. Ah, vero. Come te mai? CMR però. Ah, se mi stacca i Givi, allora. Givi, Gio Maria, non fa mai. Ande voi. E allora? Se senti chi di cui si fa sentire non la senti. E forza, e poi ce l'ha messa a burro che lo fa nessuno. E forza, se si assente l'apparecchio che lo fa nessuno. Sì, la cosa sta preparando il forcettone? Forcettone. Ah, già sei pippignato. Ah, ma così dai il movimento sempre a fare allenamento. Sì, lo devo bene, fa andare bene, tu. Sai come ti sembra lui. Adesso il sito non mi piaceva tantissimo. Noi era vinto una messa e sono rientrato a me. E per cui siamo rientrati a me. Non c'è che... Era tutto spento qua, non c'era nessuno. Fatto bene almeno più uscito un po'. Stamattina pure sono uscito. Pensate a Tromazzaro in bicicletta da una parte all'altra. E oggi giù va giù un po' più in là. Avanti, guardate come te la mancia il lozzo io. Il rettilineo, io già forse non li fai, no? Ma se fanno questa pepe, un ribadare, cammina, ci la lascia da cammina un bel. La giornata sta lì, la giornata sta da oggi. E oggi si compra a Giosso, ha già fatto il Giosso della... come ti chiama? Insomma, in fondo a tutti. Dai che vi ha girato in rotonda e riso che sta della strada, catti la strada, dai che cammino un bimbi. E da badare da leggera, catta. Questa cosa è tu parivi c'è un motore. Infatti ha già un rapporto giusto, in alzata, e a voi la carta. Da un bebè, caro piano mi sono capito ancora, però tutta la voce non si può fare, solo che da voi fa sembrare i giappi, a chi ancora non ha già fatto i gatti. Vabbè. Ma tu sei, ti sento bassissimo di radio. A me, basta di radio a me. Guarda a vedere. A Boh, le altre volte non eri così. Ma il basso sono. Prima era appena più basso, Ma ha ragione Marco, buonasera. Io l'ho sentito sempre più forte, Tore. Buonasera a tutti. Beh, vi siete alzati adesso, ah? Io così stavo vagando. Siamo due ore che ci siamo alzati. Avevo fatto burro merenda, ci è riuscito a fare una passeggiata a burro, ma siamo rientrati. Non è che ci siamo svegliati adesso, magari Marco sì, che a quest'ora lei pranzo oppure si fa il riposino. No, anzi oggi no. Nel pomeriggio siamo andati dal Shan, eccetera, non ho riposato niente. Ma dove sei andata? A Platamona? No, è una messa, c'era una messa di mia cognata e allora siamo andati in chiesa e dopo siamo rientrati, dai. Oggi è festa e domani è domenica. E va bene, vediamo come cosa fare domani. Qualche cosa bisogna inventare, ma qualche cosa bisogna inventare. Boh, adesso domani mattina mi farò una scappata in campagna, ma a guardare mi scendo, guardo e me ne salgo, a vedere se c'è ancora la campagna. Sì, già c'è, già c'è. A vero. E Tore ci farà un giro in bicicletta e ammazza la domenica mattina, così è Tore. Ah, non lo so ancora, sto già a fare domani mattina, quando me ne alzo te lo dico. Ah, a metà fresca, va bene, anche quello è vero, a metà fresca si riconcilia più bene la persona, no Marco? Stasera c'erano dei segnaloni, ma segnaloni mi dalla Germania in FM 9+15, sul 30, sul 7, caspita. E oggi mi sei arrivato più forte tu, come mai? E oggi sei fortissimo, sei 9.40. Ah boh, sarà la propagazione. Sei fortissimo. Quando ha parlato Tore ho dovuto sollevare perché era basso Tore. Ma fortissimo di radio o di segnale? No, era basso di radio, era basso di radio. Forte di radio e di segnale sì, tu Marco. Ah boh, fenomeni paranormali e incontrollabili. Va bene. È giornata così oggi. Ho provato a accendere 7009 a vedere un po' come andava. Bene va. Benissimo. Era sempre dentro la cattura. Allora giocava a farli cagli un po'. Dopo si torna a vedere la cattura. Cosa vuoi fare? Sì. Ormai c'è quello là. È bellino, mi piace anche il colore perché ci sono un azzurro bello, chiaro e un bombo. Questo invece è rosso, non mi piace. Io ci chiedo un po' che tratta la cascetta addorso. Mamma mia che capolotto che c'è, uffa! E la propagazione, Tore! Allora! Oh, c'è lo stesso segnale di Marco tutto, Lo stesso segnale! Vuol dire che la propagazione sta spingendo. Ma Marco è lontano, ma tu sei vicino, infatti ci ha detto lo stesso segnale. Aspetta, il preciso te lo dico subito, E adesso è tornato normale, dai. Ecco qua. Sì, 9.40, Marco, 9.40, vai tu. Guarda per lei. No, sei 9.45 tu, 9.45. No, aspetta, guarda, da così, guarda così. Sei 9.38. È così? 9.40 è uno quasi, è un tacchetto. No, così com'è? 9.40 più 1, un tacchetto. Segnalone. Ma anche tu arrivi bene. Tu qua arrivi sempre bene. Tu sei appena mezzo millimetro più basso di Claudio. Mezzo millimetro mi sullo smitter. Tu arrivi a sfiorare la barretta verticale del più. tu arrivi quasi a sfiorarla e Claudio la supera appena appena. Claudio la supera sì, Claudio arriva sempre più forte, forse è l'unico che è bella piena radio, magari segnale può variare, però la radio è molto più forte, caspita, è troppo forte quella di Claudio, forse anche la voce sua, però adesso bisogna anche vedere che apparecchio sta usando, capito? Ma i watt pure. C'è anche quello, è tutto lì, vabbè, l'importanza riusciamo a capirci e basta, tutto lì Marco. Sì, a voglia, se non ci capiamo noi qua. Ma Tore, cosa ha cambiato da ieri al microfono? Cosa ha cambiato? Cosa ha cambiato? Perché non va bene. Marco dice che è cambiato. Perché la radio sua è più forte di Marco, è più forte come radio. La tua segnale è forte, però la radio non è bella potente, ma questo dipende anche dal tipo d'apparecchio, però è. Un apparecchio all'altro cambia. Cambia come? Cambia apparecchio, anche la ricezione cambia da un apparecchio all'altro. Sì, può essere. E allora dovrei rimettere l'altro e vedere, dai. Vediamo di chiarirla, dai. Allora, riattacco l'altro, dai. Vabbè, ma sappiamo più o meno, dai, cosa sta a cambiare questo e quest'altro. Sei a te. L'importante è che ci capiamo, quella è la cosa più importante. Ma io, Tore e Squalo, quasi non lo capisco di radio, capito? Il problema è quello. No, è che fatti strano, dovresti sentirlo bene. Ripeto, come segnale forte, la radio non è che sia forte, ma è la sua voce così, è un po' bassa rimane, no? Capito? Via, va bene. E nel pomeriggio nessuno è entrato. Guarda bene, la mia voce è bassa. Avete parlato in due? Adesso ho migliorato appena appena. Ma non è che stai usando quella specie di microfono esterno o cos'era amplificato, non mi ricordo. No, non sto usando nulla, è la mia voce. Vabbè, la tua voce, ma l'altro apparecchio arrivavi bene, tipo ieri, o quando è, e oggi più basso. Aspetta un attimo, sto guardando perché se non sia... E forse l'apparecchio è diverso. Oggi Mario, ho messo anch'io l'autosquelce, sono stato a regolarlo manualmente e così ti elimina gran parte del rumore di fondo, perché oggi c'è un abulutto in FM. Infatti, periodo di propagazione per cui fracasso c'è, allora bisogna fare quel lavoro leggermente a chiudere lo squelce e quel remme sparisce un po', non del tutto, comunque sparisce. Ok, dai, rientro dopo che è venuta gente, dai. Io vado a bere, dai, tanto non c'è il tanto oggi, dai. Adesso bene, mi senti? Adesso sei tu. Forse c'era l'affare allentato, c'era. Può darsi pure. Non capivo prima perché. Poi all'inizio eri particolarmente basso. Poi un po' di più, ma adesso sei tu. Cos'è lui? Mia signor Bacchisombi, buonasera. Buonasera Toro, buonasera Marco, buonasera anche agli ascoltori. Ciao Bacchisio, ben entrato. Dai, riprendete voi che vado a bere. Cosa lo bevi Marco? A bere acqua, acqua gasata. Allora già Bacchi. Cosa stai combinando? Cosa vuoi che sia gomminello? In onda? Sto attaccandomi all'apparecchio. Cosa è nuovo che sto usando? Sempre questo ci ho attaccato. Anche secondo il giocatorino. Il giocattolino. Se c'è un giocattolino a vero. Io ho sentito lo spinotto con l'altoparlante esterno. Stereo. E io ho messo le due casse nere che ci avevo qua attaccate. E mi stanno uscendo tutte e due assieme. Ascolti meglio. E infatti ascolto bene, sì. Cazzo. Ok, ogni tanto devo abbassare il volume da uno all'altro. Che è basso. Si passa. Se arriva alto, se arriva basso. Se arriva basso o alto? Ah, mi arrivi normale. Se sollevo il volume, già mi arrivi bene. No, capito, capito. Andiamo a vedere, ragazzi. No, ho portato anche l'altro adesso. Solo nell'altro non è successo. Se si è spenta la frequenza. Ah. Non arrivi corrente alla frequenza. Lampeggio, lampeggio, accendi spegni, accendi spegni, non so niente. Adesso mi sta andando la nuova, 27 200 secondi. Allora vuol dire c'è cosa di massa. Che fate così? Quello che gli ha spostato il CRC. Che ha quello lì. Sai che hanno rimane un bel fermi, con l'umidità funzionano male. Infatti non ho provato ancora in trasmissione, se no. Trasmissione come? E con le bande? Ho trovato se funziona. Ah, boh. Tanto è tutto un macello, che ci intendi? Non trasmette, che vuol dire? Cosa? Con lui che provo. Se sto provando l'altro? Sto provando. A volte si attischi. Radio bassa bassa, quanto butto a intendere. Ma non sta più uscendo, quasi quasi a zero, brutto. Gira gira, più a la cosa, la propagazione che la radio tua. Questo va bene. Pensione. I contributi li devo guardare se ci arrivo veramente in pensione. Faccio la cosa, la domanda e la metto in pensione. Sì, andiamo via, andiamo, certo. Uiuia, andiamo bene, andiamo. Boh. Dai, dai, ci andiamo bene. Ah, io, boh, no, no, non so, di caldo stavo facendo giù alla parte tua. Se ne frega, alto. Ma se ne frega del caldo, uia, non si muoia barà. Certo, bebè. Ma vado a mangiare, mi devo tutta la attrezzatura e trovo a vedi se si può entrare a vedi. Vai a un anno, no? No, no, a meno, a così. Sono dentro in acqua. Anche se barca, non è che non vai con comodo. No, oh, sono andato a comprarmi i razzi, ma invece mi ha detto che ce li ha in arrivo. E già la seconda volta che sta, stanno abbassando la stessa cosa, che stanno torna la ce li ho in arrivo, ah, va, indi la ciappola il biglietto. Se tira a lungo. Infatti, se così tira a lungo, indi la ciappola il biglietto. Ciò che devo consegnare. I vecchi devo consegnare. I vecchi si devono consegnare. E li consegno così almeno, così non sto a portarli io in qualche posto. Mi si riaccendi, li consumi. Non si possono usare, no? Sì, l'avevo buttato in mare. L'avevo lanciato in mare, l'avevo lanciato per avere questo modo. Solo di notte si vede, di giorno si vede. Le città ciappani, si va a generare una vera contravenzione. Cosa l'arme? Quanto l'arme? Sì, c'è scritta Bubu. Adesso ci provo a vedere. Poi a Plotamona, a Marica. A Plotamona, ando. Ah, tanto per provare, noi, tanto per provare, me ne sono subito. Ho capito, Plotamona. Perché c'è la gente, c'è un mare di casi di gente, non si fa mai entrare. Ma dove vado io c'è poca gente? Dove vado io c'è sempre poca gente. C'è poca gente, un po' vabbè. Scusa, non c'è molta gente. Poi che si allontana un po', fare quello che vuole. Rendi la sfilata dei soldati. E c'erano i così soldati della brigata Sassari, Cantelli. Sì, ma c'è un po' di soldati della brigata Sassari. C'è sempre. Mi l'ho visto adesso passare, stavano passando con il coso Cantelli ai bassini, visto di dalla divisa di guerra, finalmente, da divisa Bizanti. Sì, infatti. Le vecchie divise militari del tempo della guerra. ufficialmente fatti a coso. Ci sono già provato meglio che c'è divisa. Metti un caldo che non si può di attà. Infatti, quando si fa di è una cosa proprio fatta per... Senti, avanti, Santiago Novo, tu arrivo, sì, Santiago Novo da arrivo, a me mi arrivi a Santiago 3. Sì, che correndo, ecco. Ci sono loro anche correndo, i rompi. Infatti, a me ho a 3 ce l'ho. FM. Ve l'ho detto che hanno una predilezione per il 23. Abba. Ascolti, 9.30 arrivano. A me 9 diti mi sono arrepenti. Ah, sono andato in FM a cursarli. Ed è un italiano. Ma in FM sono su questa frequenza. Italiano. Sì, è italiano qui. Ma se su FM sono però. In FM sono. Andiamo a scocciare loro, come loro scocciano noi. Ah, io penso che siamo mettendo i fatti, anche se sono in FM. Sì, c'è una. Sicuramente c'è propagazione sui canali alti anche in 10 metri oggi. Oh, sono qui a 3 di che non intendo. Nel senso anche sul tetto pubblicato, ieri non si è sentito. No, fine prima per la terra. Mi pare di averlo sentito ieri, ma era bassissimo. Ma chi se non la mette in alto non intendimmo. Facendo una veranda nuova. Era smontata per un dato figlio agli operai. Ah, beh, casomai sono gli operai che danno fastidio all'antenna. Cioè, l'antenna era fastidio all'operai, l'hanno smontata, l'hanno messa in testa. Io penso domani, oggi non l'ho provato, domani e domenica, lunedì lo sistemeranno. E chi di voi sta già andando al mare? Sto andando male, non al mare. Ah, nessuno? Vabbè, d'altronde nemmeno io. E poi mi devo risolvere questi problemi agli occhi, se me lo fanno subito, e così prima risolvo, prima me ne vado al mare. Beh, chiaro. Non male niente io, non puoi vivere per il sole. Sono burro. Non usaccio. Aspetta, il PMR ha già toccato il volume, che l'ha già abbassato, sei portato di frequenza. Un po' per dopo. Non c'è il PMR, non c'è. Si capirà. Non è stato il mio volume, è giusto, mi dimentichezza, ma così deve essere il PMR. Aspetta, ma chi? Hanno ben incaccato si portano la frequenza. Posso? Oh, vedo gozo. Mi hai toccato qualcosa? E vedi che è cavallato. Ma quando tocchi il tasto del volume? Cavallo si pulsa a pulsa. Quello cosa hai toccato tu, non ti sei accorto. Ma quando tocchi il tasto del volume? Colino. Io, aspetta che andiamo bene, andiamo. Oh, là. Presidente della Repubblica, anche me. Chi si va a misure non ha bisogno di sta... che devo fare il coso. Lo sport lo vado. Non sei, se ne frega, nei pubblici. Non si è sentito, Gio Mario non si è sentito. Graziano non si è sentito. Tutti i guariti, perché fai ciò oggi? Gio Maria c'era. È così. Gio Maria ha chiuso perché c'era gente. niente. Ma la chiamo, sta dietro. Sono Graziano, si era bripparendo in Italia, la gente sa temere, si era bripparendo lo luogo, si era bripparendo lo bolfettone. Manco Pomponi è entrato, sta festeggiando anche lui. Pomponi lo accompagno. Oppure sta festeggiando a birra. Pomponi non vuole biondo, se sono biondo non le vuole. Se ci sarà andato a Goggia, a Romar, è andato a pigliarsi la bionda. Al circolo, dove vuole portare me. Ogni volta mi porta nelle bettole, al vindiolo. Certo, proprio bei posti, No, a parte gli scherzi, è in circolo. Poi io ho detto, tanto a me stare in circolo non mi piace, cioè... bevi e poi ti andiamo, non è che siamo tutta la sera lì, perché c'è gente che è stata la sera lì, anzi tutto il giorno lì, mamma mia. Vanno, se fanno due ore, devi arrivederci subito. Io ci vado. Chi? Io una volta ci andavo, ma va, a giovenito, già che non ne busso due cabbi, quindi, oia. Non mi piace, no, non sono pagliato, così se sono, è amoroso, mi piace il pomeriggio, andiamo con Marino, c'è un aperitivo, no, 5 minuti, 10 minuti, e poi io fuori, la fine sera, un gambaccacco, la ieri, dai, dai. Ciao Bacchisio, buona cena, buon tutto, e ci sentiamo alle prossime. E infatti, telegiornale, adesso c'è ma non ne guardo perché tanto, tutto politica, e ne ho le tasche piene di sentire, anzi grazie a Dio hanno formato il governo, almeno quello, siamo qua, andiamo male. Vai Tore. Sì, anche tu stai chiudendo. Boh, io sono qui sul divano, bello buttato, ma speravo che entrasse qualcuno in più, ma oggi ti ho detto, quando sono giorni di festa, chi va in campagna, chi va qua, chi va là, e quindi boh. Vabbè. Come vedi un telegiornale che fa gabbaidelle, andando a mandicare mendando. E fai bene, fai bene. Una curiosità, che smetterai tu? Come arrivo di segnale? Come c'è la lancetta LED? A trattini, quando schiacci ti arriva al massimo a 9.30 ti arriva. Quando sei più di segnale mi arrivi 9.10. Eia, tu qua sei 9.20. 9.20 è un buon segnale, ma Gio Maria peggio, ancora più forte. Eppure c'ha 4 watt, deve essere che c'è una proprio un passaggio giusto tra la sua antenna e la mia e si vedono. Infatti lui c'ha il punto più alto c'ha di me, ecco cos'è, conta quello. Eia. Gio Maria è sempre arrivato bene, mi pare uno dei più forti di latte dolce, Sì. Vabbè, trova un buon buona cena. Poi lascia acceso, adesso entra un po' più tardi. E buon tutto, da sentiamo altre, che se non c'è gruppo non ci si diverte, da. Ciao. Ciao. Infatti. Ed è così, vabbè, dai, io vi saluto, ok, ciao a tutti, ciao Marco e ciao a... non mi metto il nome. Chi è? Tino? Tino, tu sei? Buonasera, ciao. Ciao Tino, segnale, come mai non eccelle? Sono con lo portatile, dai, anche lui lo devo lasciare scaldare un pochino, vedi che la radio è più candida. La radio è ottima. A Santiago 8 sei di segnale, superi di poco questo abulotto che c'è, fischi, fiaschi, gente d'FM. Purtroppo la ruota sul 10 è un po', non entra più nessuno, dai. Qua ancora, vabbè, la gente non ha voglia più del suo baracchino. Pensa quando un giorno tocchiamo ferro non ci saranno più gli anziani lì, è un po' che tengono in piedi la 27, sarà tutto da portare al pidocchio mio, a svendere. Lui, lascia perdere, sto prendendo anche il tuo impianto della direttiva, ti puoi immaginare, proprio perché non c'è più né la voglia, né il tempo, né nel tutto, quindi. Lo so. Vabbè. Destinato, eh? Soliti discorsi poi facciamo, però a me piacerebbe fare un giorno che proprio il tutto abbandonato, una specie di vetrinette a metterli dentro, con l'alimentazione attaccata e a mano del display si è acceso, così non si rovinano e in più c'hai questa vetrinette con tutti gli apparecchi in esposizione accesi. E poi c'è quella fotografia. Va bene, sono entrato a salutare, adesso sono boccanti, due rixer al PC, dai, adesso facciamo altre cose. Chi si riascolta? Ciao Marco, dai, ci ascoltiamo le prossime linee, se coincide magari stasera, più tardi, se ne ho voglia. Via, ciao Tino, buon tutto, non so se devi cenare. Dai, sentiamo le prossime. Noi a cenare più tardi. Ciao ciao. Via, ciao ciao ciao.